La fortezza. La fortezza, lo sapete, è la qualità dell'anima, per cui l'anima sa portare egregiamente i pesi senza curvarsi, per cui l'anima sa resistere alle sollecitazioni, alle emozioni, alle istigazioni esterne contro la norma. È una dote dell'anima che non si piega, che rimane ferma, che sostiene la sua parte, che non ha paura. La fortezza ci vuole perché noi non dobbiamo credere che le cose in noi resisteranno se le appoggiamo sul sentimento, sugli impeti o sugli incanti dello stesso. No, se le cose si vanno ad appoggiare sul sentimento, non resistono molto. Se si diventa sensibili, ipersensibili, se si fa capo a quella facile devozione che vede una bella vetrata e si mette a piangere e adora il Dio, sente una bella musica e comincia a fare la faccia svanita. No, no, il sentimento è una cosa che viene molto bene, serve perché è quello che rimpolpa tutto, che imbottisce tutto, dà una vibrazione a tutto. Quello che fa sì che nella vita le cose non siano tutti chiodi da succhiare e pertanto umanizza la vita e il mondo. Il sentimento è una parte rispettabilissima. E sia ringraziato il Dio che ce l'ha messo, perché se non ce l'avesse messo, noi saremmo proprio mal ridotti. Però non si può appoggiare sul sentimento la propria vita spirituale. La vita spirituale deve essere appoggiata sulla volontà. La fortezza è una dote della volontà, è una qualità della volontà. Ma a che serve aver detto che ci vuole la fortezza? Tanto più quando c'è l'opposto. Voi sapete che la virtù della fortezza è direttamente contraria al guaio della debolezza. E la debolezza umana è un capitolo troppo grave, troppo ingombrante, troppo presente dovunque, troppo clamoroso, troppo invadente, troppo pretenzioso, troppo filtrante. Filtrante anche quando si dorme, per poterlo trascurare. E pertanto l'elogio della fortezza, che è una dote dell'anima, richiama l'antagonista che è la debolezza. Noi siamo carichi di debolezza. La nostra natura umana, per la sua stessa struttura, è esposta alle prove, perché è creata per essere qua giù nella prova. E pertanto, di natura sua, è esposta ai terremoti. Ma la disposizione ai terremoti cresce perché il peccato di origine ha lasciato al genere umano un ampliamento di quella debolezza. Ha acuito la debolezza naturale, ha portato una debolezza nuova. Non ha tolto niente di sostanziale all'uomo. Il peccato di origine non gli ha tolto la libertà, come ha detto Lutero, ma l'ha lasciata indebolita, e i peccati degli uomini si raccattano su dalla gran debolezza. Voi sapete quanto c'è di ereditario nella vita. Lo studio sull'ereditarietà ha rivelato cose che hanno dato ragione alla Chiesa, hanno dato pienamente ragione a quanto la Chiesa, senza sapere delle leggi di Mendel, ha sempre insegnato. Dovete sapere che tutta la teoria del subcosciente dà pienamente ragione alla morale della Chiesa, alla virtù della modestia, eccetera, predicate da 2000 anni. Quando sulla teoria del subconsciente non si sapeva un bel nulla. La scienza arriva a dar ragione alla fede, arriva in ritardo, perché sono i soliti tornanti, è vero. Arriva in ritardo, bene o male, poi arriva a darle sempre ragione. È sempre la storia dei tornanti. Ma attenti che noi, se non abbiamo un criterio esatto su questa debolezza che c'è nella nostra natura, e non sappiamo fare i conti con questo dato reale, non resistiamo nella vita spirituale, assolutamente. Nel Trattato sulla Grazia c'è una proposizione che è certa, non opinabile, la quale dice che senza la grazia di Dio nessun uomo può osservare per lungo tempo, con le sole forze naturali, tutta la legge. Se poi guardiamo all'esperienza, quel per lungo tempo, lo accorciamo molto. E allora vedete che a questo punto, consci che occorre una fortezza spirituale, consapevoli della nostra debolezza, noi dobbiamo capire che ci occorre la grazia di Dio. Parlo della grazia di Dio attuale, cioè erogazione divina di mozioni, di energia divina data alla mente e alla volontà dell'uomo perché possa evitare il male, fare meglio il bene, tutto il bene e camminare verso l'ottimo. Erogazione di energia divinamente data in modo discretissimo e senza che la coscienza psicologica direttamente la possa avvertire. Dio è discreto, entra senza chiedere al portinaio le chiavi, ma senza questa grazia non si fa niente. È inutile avere l'umano orgoglio o il cerebrale umanesimo di dire io con i miei principi filosofici, io con il mio carattere da galantuomo, io con la mia forza di volontà. No, io niente, proprio niente. Senza grazia di Dio non si fa niente e questo deve rimanere ben scolpito. Ci vuole la sapienza, ma per avere la sapienza ci vuole tanta grazia di Dio e per questo cominciamo sempre col cantare il Veni Creator o il Veni Sancte Spiritus. Ci vuole la fortezza, ma la fortezza noi non la rimediamo se non c'è una grande grazia di Dio, grazia attuale. E allora capite dove si arriva. Tutta la nostra vita contemplativa è legata al fatto della grazia di Dio in noi e pertanto al fatto che noi abbiamo la metodologia per procurarcene sempre coi mezzi che voi ben conoscete. Occorre la fede in quei mezzi, perché con quei mezzi si risolvono tutti i problemi, nessuno escluso, si superano tutte le difficoltà, tutte le tentazioni, tutti i dubbi, tutte le esitazioni. Messa, sacramenti fatti bene, sacramentali, preghiera e nella preghiera soprattutto l'orazione mentale, penitenza. La penitenza è necessaria all'obbedienza perfetta, all'umiltà perfetta, alla carità perfetta. Noi dobbiamo procurarci la grazia di Dio coi mezzi che conosciamo e saperli maneggiare tutti, con la caratura, col volume, con la forza, con la lunghezza d'onda che occorre secondo i rispettivi casi e la propria soggettiva situazione. Ma usciamo di qui con la coscienza che noi non avremo nessuna vita contemplativa se non ci sarà questa grazia di Dio e se non daremo a questa grazia del Signore la collaborazione che si dà con la docilità e con la stessa ricerca. Perché Dio ci ha lasciati liberi, ci ha lasciato l'onore di chiedere molte volte la sua grazia e in ogni grazia, anche data senza nostra richiesta, e sono le più, l'onore di collaborare. Dio non ci vuole ricchi mendicanti, vuole che in tutte le cose anche noi abbiamo la nostra parte. Dio per primo intende salvare l'umana dignità che ci ha dato. È qui che deve operare il nostro convincimento, è qui che deve farsi sentire la profondità del medesimo convincimento e la costanza in esso, quale criterio che deve guidare la nostra vita. Testo estratto dal libro del cardinale Giuseppe Siri, Esercizi spirituali, edizioni Pro Civitate Cristiana, Assisi 1962.